sole pali, sole invernale, pala al passaggio di un uomo politico, politico sotto le telecamere del telegiornale, cappello in testa, vestito brutto, il resto è niente, il resto è scuro. Non come adesso in questa atmosfera siberiana. E tra fiori e le ginestre senza poesia, cada a terra capovolta la mia follia. Una follia strana, poco armoniosa, indistinguibile per chi crede che sia una scusa. Sistema monetario e facoltà occupata, a mordermi la voce, ma di sotto stanno urlando, stanno cantando. C'è un odore quasi acido di fumo e fango. Ed invece che vorrei cantar poesie, frasi semplici, concrete, frasi solo mie. Sono costretta ad assuefarmi a questa imitazione, come fa sempre lo schiavo con il padrone. Ti rimbombano in testa tante storie e tante idee, ma qualcosa sta cambiando forse.